La donzelletta viene dalla campagna, conscia la Volvo, conscia la Volvo. La donzelletta viene dalla campagna, conscia la radio, conscia la techno. Sai con galline computerizzate, vacche impazzite, teletrasportate. Nonno bionico, mungi il tuo robot. Nonno bionico, nonno bionico, mungi il tuo robot. Nonno bionico, Cyberphone, Techno Chiful. Cavallina storna, laga sul Twitter, laga sul woofer. E cavallina storta, laga sul Kenwood, laga sul Dolby. C'è la processione con la Madonna laser, padre Mazinga che prega con il phaser. Nonno bionico, mungi il tuo robot. Nonno bionico, bionico, mungi il tuo robot. Nonno bionico, Cyberphone, Techno Chiful. Cyberphone, Techno Chiful. E megabyte, e megabambi, la megabyte, e megabyte. Cyberphone.